America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, comincio con una notizia, questa mattina ce l'ha data il New York Times, e cioè che in Russia si sono creati dei movimenti per finanziare i ribelli in Ucraina, che raccolgono fondi sotto la maschera di organizzazioni umanitarie, ma raccolgono questi fondi su internet con una operazione di crowdfunding. Una si chiama Save Donbass, l'altro è il battaglione umanitario Novorossia. Ecco, la cosa non è propriamente legale, perché di fatto, dice New York Times, ha l'avallo implicito e forse anche esplicito del presidente Putin, vengono usate banche di Stato russe. Ecco, questo fa parte della retorica che negli ultimi giorni è cresciuta sull'Ucraina. Sentiamo Jeb Bush, che è andato a Berlino a parlare proprio di questo. First of all, our support for the Russian people, that we need to make it clear that while Mr. Putin is a ruthless pragmatist. Ecco, Jeb Bush, candidato presidenziale, potrebbe essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Devo dire, è andato a Berlino, pochissima gente, certo 1000 persone contro i 200.000 che ha avuto Barack Obama, ma soprattutto non ha fatto proposte nuove. Ha detto: dobbiamo tenere la linea dura perché Putin va avanti fino a quando qualcuno non lo ferma. Ebbene, io credo che l'unica via però sia quella delle sanzioni, che disturbano Putin. Sentiamolo. Ma говорили о том, как эти санкции мешают Vladimir Putin, ecco, Vladimir Putin qui dà un messaggio piuttosto aggressivo, dice: queste sanzioni stanno danneggiando soprattutto l'economia italiana, sarebbe meglio toglierle, perché che succede? Dice: beh, noi cominciamo a fornirci, a rifornirci da altri paesi, da altre aziende, quindi c'è il pericolo di una perdita strutturale di questo business, non soltanto legata al periodo in cui ci sono queste sanzioni in corso. E si dibatte di sanzioni, perché fra poco il Consiglio europeo dovrà riunirsi. Barack Obama chiede che siano rinnovate, e in tutto questo l'Italia per alcuni è l'anello debole della catena. Sentiamo il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Viviamo un quadro internazionale difficile, non soltanto per le questioni che non ci vedono uniti, ma anche per questioni che dovranno vederci sempre più dalla stessa parte in uno scenario internazionale molto complicato, a partire dalla minaccia terroristica globale. Ecco, Matteo Renzi, lo avete sentito, parla di un quadro internazionale difficile, però poi specifica cioè il terrorismo, non parla direttamente dell'Ucraina e delle sanzioni, e dopodiché ha cercato un po' di barcamenarsi. È vero, Putin era ospite all'Expo, e dunque bisogna anche essere diplomatici, e come ha detto giustamente il nostro Premier, l'Italia, l'Occidente, perché l'America ha mandato il segretario di Stato Kerry, per esempio, a Sochi, sono incontrati, si lavora con la Russia sul fronte iraniano, su quello siriano e così via, così via. Però c'è una situazione problematica su molti fronti. Ecco, io con me in linea ai microfoni America 24 Gerardo Pelosi. Gerardo è l'inviato del nostro giornale che segue il Presidente del Consiglio, che ha partecipato ai vari incontri di Putin con Matteo Renzi. Buongiorno Gerardo. Buongiorno a voi. Ecco Gerardo, allora, come vedi c'è una situazione problematica e ci sono varie domande. Dal mio punto di vista credo che sia inevitabile che queste sanzioni vengano rinnovate, e che l'Italia a un certo punto sarà allineata con gli altri, perché è l'unica strada possibile. Stiamo aspettando che Minsk prenda corpo, e Minsk non prenderà corpo fino a dicembre. Ecco, cosa pensi succederà? E pensi che ci sia una posizione ambigua di Renzi? Ma il sentiero sul quale si muove Renzi è assolutamente molto, molto stretto. Che cosa è avvenuto ieri? Certo, l'Italia ha aiutato Putin a uscire dal suo isolamento. Da un lato Putin ha detto: state attenti, perché queste sanzioni vi costano all'Occidente, all'Europa, ovviamente in termini di business, di contratti, cifre molto importanti, 1 miliardo di euro per l'Italia. E che cosa ha detto Renzi? Attenzione, noi non dobbiamo marginalizzare troppo la Russia, perché altrimenti rischiamo di avere una comunità internazionale alla quale manca un attore fondamentale per le sfide globali. Ecco, scusa, appunto, la cosa è questa, che anche l'America dice la stessa cosa, anzi l'America sta negoziando con la Russia sull'Iran, sta negoziando con la Russia sulla Siria. Allora Dov'è questa differenza? Perché c'è questa percezione del fatto che l'Italia possa essere l'anello debole di questa catena che sull'Ucraina, dal punto di vista occidentale, a partire dalla Germania, per arrivare fino agli Stati Uniti, passando per la Gran Bretagna, non si vuole cedere, cioè bisogna che Minsk sia rispettato. Ma diciamo che l'Italia rappresenta l'anello debole perché ha una dipendenza energetica dalla Russia molto significativa, perché i rapporti è il terzo partner europeo, il quarto mondiale della Russia, quindi significa che c'è dietro tutta una storia di rapporti consolidati. Rispetto all'America, l'Europa è l'anello debole, perché anche la cancelliera Merkel, proprio al vertice G7 di Schloss Elmau, ha avuto un atteggiamento ovviamente sempre molto duro, ma non così duro come quello di Obama, che ha attaccato in maniera diretta la nuova egemonia di Putin, che si manifesta in queste azioni che vanno contro il popolo russo. Ecco Gerardo, infatti le sanzioni stanno funzionando, ma secondo te saranno rinnovate? Ci sarà il fronte comune dell'Occidente al di là di queste sfumature? Perché credo che non vada mai dimenticato che la Russia ha soldati in territorio ucraino e ha artiglieria pesante in violazione degli accordi di Minsk. Ecco, le sanzioni saranno rinnovate o no dal punto di vista europeo? Il 25 e 26 giugno a Bruxelles il Consiglio europeo non potrà fare altro che confermare queste sanzioni, in attesa di vedere se l'accordo di Minsk 2 sarà integralmente, e questo lo ha confermato anche ieri Putin, integralmente rispettato. Secondo Renzi l'accordo di Minsk è la stella polare, quello dal quale dipende tutto quanto il futuro delle sanzioni e anche del reingaggiamento della Russia nella comunità internazionale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di Ucraina, me ne sono occupato molto da quando la crisi è scoppiata e avevo così individuato una canzone che tra l'altro ho anche tradotto in italiano ed eseguito per voi su YouTube, cioè Where Have All The Flowers Gone? Dove sono finiti i fiori? Perché? Perché è una canzone che è stata scritta da un autore americano, Pete Seeger, ispirato però da un testo ucraino e da una musica russa, quindi il simbolo del multiculturalismo e speriamo della pace. Dunque di Pete Seeger, Where Have All The Flowers Gone? Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? They've taken husbands, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Ever learn? Oh, when will we tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.